Benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 e se volete potete ascoltarci anche in streaming attraverso il sito www.ondarossa.info cliccando su Ascolta la diretta. Un saluto particolare a tutti coloro e a tutte coloro ci ascoltano mentre sono privati della propria libertà personale. Siamo ancora negli anni 90, ma le tematiche dei soggetti e dei film della scorsa settimana erano impegnative e hanno lasciato il film di oggi invece a delle tematiche più leggere. Infatti è un po' il manifesto del disimpegno, almeno per la sua storia, ma come dicevano gli Assalti Frontali, nella vita l'importante è saper essere leggeri e noi oggi lo saremo con questo film che è Single, una commedia romantica che sarebbe rimasta sconosciuta e più se non fosse stato per la bellissima colonna sonora che ci ascoltiamo insieme. Abbiamo appena ascoltato il brano World degli Alice in Chains, contenuto nella colonna sonora del film Singles, che è tutto improntato sul grunge. Il grunge di Seattle, infatti la musica, come molti altri film di Crow, adoro la musica... il grunge di Seattle. Di Seattle, sì. Il Crow, il regista, nei suoi film la musica è sempre molto importante. Sì, l'abbiamo visto anche in Vanilla Sky, eh? che esatto. abbiamo fatto di lui anche Vanilla Sky. Esatto, in questo film addirittura i protagonisti vanno proprio a vedere i gruppi, i veri gruppi che compaiono nei vari club di Seattle. Di quel periodo, sì. Di quel periodo, ci abbiamo i Pearl Jam, ci abbiamo appunto gli Alice in Chains, Soundgarden. Soundgarden. Madonna. No, ma loro proprio nel film ci sono proprio delle scene in cui i protagonisti sono, vanno a sentire musica nei club e ci sono proprio, non so, i Soundgarden che suonano, gli Alice in Chains che suonano. Cioè, ci fanno proprio parte pure, del film. Nella colonna sonora ci doveva essere pure i Nirvana, però avevano già avuto, quando è uscito il film, avevano già avuto successo e quindi gli costava troppo i diritti d'autore e quindi non li hanno messi. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Singles, e questo era Chris Cornell, e il brano si chiama Seasons. Chris Cornell ha scritto questo brano proprio per il film, è una demo di 4 tracce che ha presentato al regista, e ne ha usate 2 di queste tracce. Chi è Chris Cornell? È il capo e l'architetto del movimento grunge degli anni 90, e lui ha iniziato la sua carriera con i Soundgarden, poi insieme ai Pearl Jam creano il gruppo Temple of the Dog, e insieme ai Rage Against the Machine crea il gruppo gli Audioslave, che cantano addirittura gratuitamente a Cuba. Beh, Chris Cornell, insomma, con i suoi gruppi ha venduto oltre 30 milioni di dischi, però non si è mai tirato indietro dal suo impegno sociale. Infatti ha dato vita a una fondazione che si occupa di persone bisognose, e questo gli va dato merito, e ha fatto anche molti lavori per varie colonne sonore, sia di film indipendenti che di pellicole più commerciali. Ha scritto una canzone per un James Bond, Casino Royale, You Know My Name, Avengers, e ha avuto una nomination a Golden Globe per The Keeper from Mark Foster, del film 12 anni schiavo. Una curiosità, Chris Cornell ha tentato l'audizione per il ruolo che poi si è preso Matt Dillon, e ha dichiarato poi Cornell stesso che il personaggio era molto più, per interpretare il personaggio era molto più adatto Matt Dillon, che la sua vita assomigliava di più. E comunque appare Chris nel film, per chi l'ha visto, è il capellone. Tutti e due i capelloni. Compagno Matt Dillon. Sì, beh, insomma, lui è proprio capellone, nel senso che c'ha questi capelli ricci con la riga in mezzo, proprio grunge. E appare in una scena in cui Matt Dillon ha montato lo stereo a questa sua, diciamo, amichetta, che è Bridget Fonda, e gli monta lo stereo nella macchina, e facendogli sentire il volume quanto poteva essere alto, gli sfonda tutti i vetri della macchina, e c'è Chris Cornell che guarda attonito questa scena sul marciapiede. E questi erano i Mud Honey con il brano Overblown. Anche loro sono una band di Seattle, formatasi nel 1988. Il loro nome è un omaggio al film Madonna di Russ Meyer del 1965. Sono considerati in assoluto il primo gruppo della scena grunge che contribuì alla propagarsi dell'utilizzo di questo suono sporco che è proprio e distorto, che è proprio tipico di questo stile musicale. E poi, per quanto riguarda il film, volevo dirvi che ci sono varie curiosità. Ci sono i Pearl Jam che interpretano i membri della band di Cliff, i Citizen Dick, e sono proprio Eddie Vedder, Jeff Ament e Son Gossard. E Eddie Vedder proprio parla anche, insomma, dice delle battute e cerca di rincuorare Cliff quando in una recensione legge che vorrebbero internarlo in qualche altro stato americano per non sentirlo più cantare, mentre invece gli strumentisti del gruppo sono formidabili. Ed Eddie guarda Cliff e gli dice: un complimento fatto a noi è come se un complimento fatto a te. Avete ascoltato State of Love and Trust, scritta da Eddie Vedder dei Pearl Jam, ovviamente, proprio per questo film. Dopo aver visto una preview del film si è ispirato, e il brano parla della fedeltà, d'amore e fedeltà. Allora, i Pearl Jam sono, hanno una nascita un po' onirica, infatti tutto inizia nel 1984 quando il bassista Jeff Ament insieme a Mark Arm, futuro leader dei Madonna, forma i Green River, un gruppo, uno dei gruppi che maggiormente hanno influenzato il rock di Seattle degli anni 80, ai quali si aggiunge l'anno seguente il chitarrista Son Gostard. Nel 1987 i Green River si sciolgono e dalle loro ceneri prendono vita i Mother Love Bone, composti da Andy Wood, Son Gostard, Jeff Ament, Bruce Fairway, Greg Gilmore. Il gruppo ha in preparazione l'album di esordio Apple, ma il 16 marzo 1990 muore per overdose di eroina il cantante Andy Wood. Il disco uscirà ugualmente postumo, ma nonostante il contratto con una major, i componenti della band, distrutti dal tragico evento, decidono di abbandonare il progetto. Ament, con Gossard insieme al chitarrista McCready, incidono un altro contenente, il materiale che di lì a poco sarebbe diventato la musica dei per Jam. Infatti il demo finisce nelle mani di Jack Irons, ex batterista dei Red Hot Chili Peppers, il quale lo consegna a Eddie Vedder, un amico che lavora a una pompa di benzina a San Diego e passa il tempo libero facendo surf e cantando nei Bad Radio, una band locale. In pochissimo tempo Vedder scrive i testi che diventeranno Alive, Footsteps e Once, e in un attimo nascono anche i brani di Ten, il primo album del gruppo e forse anche quello più bello. E poi non dico più niente, perché il resto della biografia dei Pearl Jam è soltanto quattrini, sì, e milioni di dischi venduti e soldi, soldi, soldi e basta. Una curiosità: il nome Pearl Jam deriva dal fatto che la nonna di Vedder, che si chiama Pearl, che preparava una marmellata di peyote per il marito indiano secondo i canoni e la tradizione dei popoli precolombiani, e per questo si chiama Pearl Jam. Bow. abbiamo ascoltato una bella versione del Battle of Evermore delle Zeppelin, scritta da Jimmy Page e Robert Plant, cantata eseguita dal gruppo The Love Mongers, un gruppo femminile. E di questo brano volevo parlare del testo della canzone, che si riferisce proprio alle opere di Tolkien, di cui Plant era un grande appassionato, e infatti nella canzone si citano Frodo, Gandalf, Aragorn e tutti gli appartenenti alla saga del Signore degli Anelli. E di questa pellicola, che secondo me, se sceneggiata meglio, avrebbe potuto essere anche un manifesto di una generazione, ma insomma Crow non c'è molto riuscito, quindi il film secondo me è meno che mediocre, però ha delle cose anche divertenti. I vari cameo mi hanno colpito all'interno del film, li avete notati? L'avete visto il film? Sì. Io non l'ho rivisto, devo essere sincero. Ma ti ricorderai i cameo, che era l'unica cosa che... parlando... Vabbè, ve li dico io, ve li ricordo io. Il cameo di Paul Giamatti, che in un locale bacia una donna in modo proprio che... che sembra che se la mangia, e sentendosi osservato si gira verso Janet e Steve e dice: che c'è? What? E poi c'è un cameo di Tim Burton molto carino, che appare per pochi secondi nei panni di uno scarsissimo regista di videoclip per annunci matrimoniali indicato dalla sua gente come il prossimo Martin Scorsese. Poi c'è un cameo dei Soundgarden, che suonano in un piccolo locale e grazie alla loro musica Steve, uno dei protagonisti, cerca il primissimo approccio con Janet. E poi c'è un cameo di Chris Cornell, che vi ho già detto, e insomma il film è così, è carino, ma insomma un film leggero sull'amore, sui sentimenti, ma come dicevo prima, senza la colonna sonora, no David? Forse sarebbe passato inosservato. Aggiungo che del Love Mongers Battle of Evermore è uno di quei casi in cui la cover è migliore dell'originale, questo secondo il mio gusto personale. È vero, è vero. Oh, questa canzone ci introduce al nostro ospite di questa settimana, Michela Greco, che è in linea. Ci sei, Michela? Sì, eccomi, ciao. Oh, benvenuta, come va? Grazie, bene, grazie, voi? Bene, bene. Stavamo parlando, insomma, tra l'altro male di questo film, che io ricordo poco, devo essere sincero, però Ottavia l'ha rivisto proprio in occasione di questa puntata. Cameron Crowe, che comunque è il suo secondo lavoro che affrontiamo in trasmissione, perché ci eravamo occupati anche di Vanilla Sky. Comunque sulla musica ha qualcosa da dire. Rispetto a Cameron Crowe, già attore, già sceneggiatore e poi regista, si può dire che comunque non è uno dei grandi, sicuramente quasi famosi, col quale vinse anche l'Oscar per la sceneggiatura non originale, è una delle cose più importanti che ha fatto, no Michela? Sì, sono d'accordo anche con quello che diceva Ottavia, che adesso in occasione sapevo che mi avreste chiesto di questo film e me ne sono rivista un pezzetto. Effettivamente si sente proprio, oltre appunto a essere piuttosto medio, diciamo, si sente tantissima l'età che ha, nel senso che... Li dimostra tutti. È molto naif, li dimostra tutti, ha proprio più di 20 anni, era del 92, e appunto invece di pensare che è un film di 20 anni fa, mi è venuto proprio in mente che era un film di un altro millennio, perché è anche vero, però la percezione è questa, e effettivamente proprio un'occasione sprecata, come dicevo Italia, nel senso che colonna sonora così, con appunto il momento dell'esplosione del Grand, è anche un bel cast, poi alla fine anche un bel cast, non male, insomma tutto il mondo del Grand che si sente nella musica, ma nel film insomma un po' così, poco presente, un po' evanescente, un po' fin troppo leggero, fin troppo pop. Poi invece Almost Famous ha detto molte cose in più, nel senso che lì veramente è riuscito molto di più, oltre ad avere una colonna sonora fantastica, a raccontare un po', a essere un bel romanzo di formazione, a raccontare i sentimenti e a rispecchiare un pochino anche lo spirito di un'epoca, no? Di un passaggio, di un momento attraverso la musica, un po' di fine di illusione. Che poi è anche un po' un film autobiografico, no Michela? Perché sì, leggevo che Crowe, prima di fare il regista, era stato effettivamente un giornalista, sì, e un critico musicale. Cream, Playboy, Penthouse, Rolling Stone. Esatto, quindi sì, ha attinto molto dalla sua storia, e vabbè, non è un caso che si sia sposato anche con una musicista che poi è Nancy Wilson, che poi ha anche collaborato con lui per la musica di svariati film. È giusto, quindi, dire che ci sono registi che creano film sul mondo della musica, ci sono registi che stanno a scegliere una buona musica, e poi ci sono registi che di fatto forse ne sanno più di musica che di film. Esatto, direi che è proprio giusto, sì. Senti, parlando prima, avevo citato Vanilla Sky, che era uno dei film che abbiamo trattato in trasmissione, e lì sconta il fatto che comunque viene dopo il film Apri gli occhi di Amenabar, e sicuramente, che era un bellissimo film, quindi quindi è stato penalizzante per se stesso, secondo me. Sì, penalizzante, poi vabbè, anche diciamo che Tom Cruise, diciamo che non è fra i miei preferiti, quindi forse anche quello è un po' penalizzante. Sì, ecco. sì. Senti, no, poi per esempio c'è anche un altro film di cui pare sarà parlato parecchio, molte mie colleghe, appunto, soprattutto femminucce, l'hanno amato molto, così quando se ne parla, Occhi a forma di cuore, che era Elizabeth Town. Anche qui un po' più o meno, invece secondo me il giudizio è lo stesso che do su Singles, nel senso che è un'altra occasione sprecata, cioè un film che vorrebbe appoggiarsi molto anche lui sulla musica e su questi personaggi un po' confusi, ma poi ecco, di nuovo evanescente. Senti, più in generale, che idea hai della cinematografia di Cameron Crowe? Ma è un cinema che cerca di essere adatto ai suoi tempi, nei suoi tempi, appunto. Nel 91, nel 92, quando ha fatto Singles, probabilmente in quel momento era una cosa abbastanza fresca e nuova. Ovviamente, appunto, come dicevo prima, oggi non dice più la sua. Però mi sembra anche che lui non è che abbia queste enormi pretese, nel senso che lui, secondo me, vuole fare un cinema pop. In questo è onesto, riesce, insomma. Sì. In questo è onesto, sì, forse riesce a fare un po' meno di quanto di quanto ambisca a fare. Per esempio, ma secondo me lui ha proprio sbagliato mestiere. Nel senso che secondo me lui doveva dedicarsi alla musica. Perché ma poi probabilmente. Sì, cioè, hai visto che ha fatto anche questo questo è l'unica cosa secondo me bella che ha fatto, un documentario che segue la tournée di Elton John e Leon Russell, e poi fa un documentario su Pearl Jam che racconta i vent'anni di carriera di Pearl Jam. Io quello purtroppo non ho avuto occasione di vederlo, quello su Pearl Jam, però a me mi hanno detto che era molto bello, neanch'io l'ho visto, però mi hanno detto che era molto bello, quindi secondo me lui si dovrebbe dedicare a questo. Sì, ecco, infatti, no, forse sì, nel senso che anche poi ha fatto un film anche abbastanza recente, che era La mia vita uno zoccolo con Matt Damon. Sì. Anche qui un filmetto, però io mi ricordo che intervistai a Venezia poco prima che uscisse il film alcuni membri dei Sigur Rós, che erano venuti per un film concerto a Venezia, ma non c'era Jonesy perché era proprio impegnato su questo film di Cameron Crowe. Poi visto il film, un filmetto dove addirittura qui la musica, insomma, la scelta era particolare, no? Perché insomma Jonesy e Sigur Rós non è come scegliere musica pop americana, insomma. Sì. E però non incideva. Io mi ricordo che rimasi stupita proprio per il fatto che non fu una scelta incisiva, insomma, quindi trovavo l'occasione sprecata. Però ha avuto una nomination agli Oscar, sto leggendo, per Jerry Maguire. E Cuba Gooding Jr. Ha preso l'Oscar come miglior attore non protagonista, quindi qualcosa ha sfangato. Beh, no, pure quasi famosi come sceneggiatura non originale. Sì, no, come sceneggiatura originale. Quello l'ha proprio vinto. Quello l'ha proprio vinto. Giusto. No, io mi vergogno un po' a dirlo, però Jerry Maguire è un film che se mi ricapita di vedere. Te lo rivedi. Sì, perché c'aveva una bella tensione drammatica. Ecco, pure lì, nonostante Tom Cruise, un film che quello ha sempre ricordato più di altri suoi. Adesso poi dovrebbe uscire fra poco il nuovo film di Cameron Crowe che si chiama Sotto il cielo delle Hawaii, e noi faremo la colonna sonora sicuramente. Certo. E però insomma c'è un bel cast, vediamo. Un film sul surf, Sotto il cielo delle Hawaii. Senti Michela, e invece sulla musica, noi finora abbiamo già mandato Alice in Chains, Chris Cornell da solo, Pearl Jam, le Love Mongers, poi ci sono anche inclusi in colonna sonora Jane's Addiction, Jimi Hendrix, i Pixies, insomma niente male davvero, insomma ha rappresentato bene un quadro musicale storico. Anche se poi era clamoroso che mancavano Nirvana, sì, nella sì, del film, mancavano però, proprio perché già erano comunque, avevano una certa notorietà e sarebbe costato molto farli rientrare. Io ho trovato nelle varie informazioni su internet che il film si doveva chiamare Come As You Are, come il titolo della canzone di Nirvana. Vedi, ecco, brava Ottavia. Sì. Senti Michela, noi come gioco anche per tutti gli ospiti durante la nostra puntata chiediamo sempre qual è un film o dei film che ti piacerebbe suggerirci per una colonna sonora che merita veramente. Ah, guarda, me ne sono venuti in mente due. Uno molto facile rispetto al fatto che oggi parlavamo di singles di Cameron Crowe, che è Into the Wild, che ha la colonna sonora di Eddie Vedder, sì, ed è un film che io ho amato moltissimo, di Sean Penn, e è anche una colonna sonora che a me è piaciuta moltissimo, quindi sì, quello sicuramente è una tra le colonne sonore che merita, mi piacciono molto. E un altro che non c'entra niente e che però mi piace moltissimo è Il Divo, perché ha la colonna sonora di Teo Teardo, che la sua musica originale è bellissima, e poi c'è questa canzone Nux Vomica che io non conoscevo, ho scoperto con quel film, che mi piace, che è una medicina omeopatica. Forse sì. Vomica. Sì. No, mi fa ridere, scusami. Oggi sono però così estemporanea, sono irritata dal film. È una canzone veramente potente quella lì, impressionante. Io che l'ho scoperta grazie al Divo, quindi grazie Divo. Grazie Divo, noi annotiamo. Ti ringrazio Michela. Grande Michela. Un abbraccio a voi. E magari a presto. Col prossimo film di Crow. Bene, sì, non vedo l'ora. Così lo smontiamo ben bene. Esatto. Ciao Michela. Ciao, grazie. E questo era Drown degli Smashing Pumpkins, scritto proprio da Billy Corgan. E sfumato, sì, perché era molto sì, lungo, quindi minuti. Sennò non possiamo parlare. E la band, possiamo parlare, non possiamo farvi sentire nient'altro. Esatto, sì. Gli Smashing Pumpkins nascono a Chicago nel 1988, e grazie proprio a Billy Corgan e James Ia e R.C. Wedsky. E poi presto si aggiunge il batterista jazz Jimmy Chamberlain, e loro mescolano sonorità punk e si ispirano ai Jane's Addiction, alla psichedelia dei Jane's Addiction, alle sonorità acide, e hanno successo quando fanno da spalla ai concerti di Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam, per l'appunto. Sì, e poi fanno tutti lo stesso percorso, Lollapalooza, insomma, sì, anche un po' noioso poi, dopo un po'. No? Il percorso, dici? Insomma, sì, questi tutti uguali mi sembrano poi alla fine, no? Beh, comunque poi... Cioè, lì per lì, per quel periodo là, mi sembravano eccezionali. Adesso a risentirli, David, cioè... Ma a me Smashing Pumpkins piacciono. Sì, ti continuano a piacere. Sì, sicuramente più dei Pearl Jam. Sì, però si assomigliano tutte queste sonorità. Eh sì, un po' sì. Infatti, comunque alla fine, un po' per morti di eroina, un po' perché appunto le sonorità erano quelle, alla fine. Meno male che qualcuno ha fatto la fine che doveva fare, sennò stavano ancora là a fare sempre queste solite. Canzoni struggenti con queste batterie. Questa battuta. Dai. Waterfall, nothing can harm me at all. My worries seem so very small. Waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. Some people say their dream is for all the lazy-minded fools with nothing else to do. So let them laugh, laugh at me. So just as long as I have you to see me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Don't ever change your ways. Fall with me for a million days. Oh, my waterfall. Abbiamo ascoltato May This Be Love di Jimi Hendrix, e non poteva il regista non mettere Jimi Hendrix, dato che era di Seattle, il film parla della musica di Seattle, del grunge, ma non poteva non metterlo Jimi Hendrix. Anche perché questa sì che è musica, ragazzi. Sì, May This Be Love è contenuta nell'album Are You Experienced, e è bellissima. Abbiamo ascoltato il pezzo dei Mother Love Bone, Claw Dancer, Crown of Thorns. E questo era veramente un bel pezzo, forse quello che fa veramente la differenza insieme a quello di Jimi Hendrix e al pezzo che abbiamo ascoltato dei Pearl Jam. Infatti Andrew Wood è stato veramente un grande rappresentante di questo ondata musicale e ha avuto un grande rispetto da parte di tutti i rappresentanti di questo periodo, perché era un grande cantante, un grande frontman, morto tragicamente di overdose solo 13 mesi prima che questo disco uscisse. Insomma, un grande, e con questo poi concludiamo la trasmissione per oggi. Vi ricordo che potete sottoscrivere alla radio, che ha bisogno del vostro sostegno, attraverso il conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Ringrazio G per il suo contributo. Non è importante, ricordo a tutti gli ascoltatori, che non è importante quanto potete sottoscrivere nei confronti della radio, ma che voi lo facciate. Non è importante quanto, ma che voi lo facciate anche con una piccola sottoscrizione. E voglio salutare Monica e saluto tutti voi ascoltatori. E Fede, per scriverci tracce di cinema@andarossa.info, ci sentiamo giovedì prossimo dalle 15 alle 16. David, chiudiamo con Jane's Addictions, 3 Days. Yo.